Luna Park. Lo scimmione si aggirava dalla giostra al bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. La sesta luna era il cuore di un disgraziato, che maledetto il giorno che era nato, ma rideva sempre. Da anni non vedeva le lenzuola, con le mani sporche di carbone. Toccava il culo a una signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. La quinta luna fece paura a tutti, era la testa di un signore, con la morte vicino giocava a biliardini. Era pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato. Sicuramente era malato, perché perdeva sangue da un orecchio. La quarta luna era una fila di prigionieri, seguivano le rotaie del treno, avevano i piedi insanguinati e le mani, e le mani, e le mani senza guanti. Ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi non ce ne sono più tanti. La terza luna uscirono tutti per guardarlo, così grande che più di uno pensò a Padre Eterno. Sospesero i giochi e si spensero le luci, cominciò l'inferno. La gente corse a casa perché per quella notte ritornò l'inverno. Seconda luna portò la disperazione tra gli zingari, qualcuno addirittura si amputò un dito. Molti andarono in banca a far qualche operazione, ma che confusione! La maggior parte prese cani e figli e corse alla stazione. L'ultima luna la vide solo un bimbo appena nato, aveva occhi tondi e neri e fondi e non piangeva. Con grandi ali prese la luna tra le mani,